Siamo indignati perché non si fa abbastanza per difenderlo. Quali potrebbero essere delle misure più idonee? Innanzitutto considerare reato offendere Cristo. Dovremmo rendere reato la bestemmia. Sì, assolutamente sì. Reato è grossa però. Reato è vero, è grossa. Io vengo dalla Toscana, mio nonno bestemmiava. I vecchi preti di base dicevano che la bestemmia dei contadini toscani è una carezza a Dio di chi ha poche parole per parlarci. Beh, diciamo che sono secondo il proprio punto io di vista. Io quando bestemmiano i miei, gli dico vi cascasse la lingua, vi potete morire. Vi potete morire, gli dice. Sì, no, sì, no, sì, no, sì, no, sì. No, no. Però che c'entra potete morire? E io lo dico, però non lo bestemmono più. In un tempo in cui essere diverso era una condanna. E la condanna era la morte. Un uomo decise di ribellarsi al suo Dio. Da Fox Searchlight. Il 5 volte premio Oscar Kirk Lazarus. E il vincitore dell'MTV Movie Award per il miglior bacio Tobey Maguire. Vincitore dell'ambita scimmia urlante al Festival del Cinema di Pechino. Satan's Alley. Sono stato molto, molto cattivo, padre. Amici, amiche, amici, amic della Brusca, benvenuti. Oggi è il 20 marzo 2020. E questa sarà una puntata collage perché io e Nenias, nonostante si viva vicinissime, siamo ovviamente per forza di cose separate e quindi questa è una puntata collage ed è una puntata sulla bestemmia perché in questi giorni ne stiamo tirando tutti tantissime, quindi turpiloqui, bestemmie, origini linguistiche, un sacco di fonti dal web, ma lascio la parola alla Nenia subito che ci deve raccontare il fatto della settimana. E buonasera a tutti gli amici della Brusca. Siamo qui riuniti oggi in questi giorni di pandemia perché il Papa Francesco ci ha richiamato all'ordine e ha così chiesto al Signore di fermare l'epidemia, dicendo proprio: Signore, fermala con la tua mano, ho pregato per questo. Ma allora dico, Francesco, ma non ci potevi pensare un pochino prima? No, proprio, cioè, dopo 2 mesi, va bene. Ed è per questo motivo che oggi, come avrete sentito dal nostro spot che anticipa l'argomento del giorno, si parlerà della bestemmia. Bene, oggi leggeremo tutti i manuali della bestemmia, ne parleremo dal punto di vista legale, ne parleremo dal punto di vista più ludico e preparatevi, tenetevi pronti, siamo su Radio Wombat, palinsesto speciale, andremo in onda il venerdì anziché il giovedì, siamo in diretta, forse sì, forse no, chi lo sa, stiamo tagliuzzando file audio e facendo dei montaggi disperati perché i nuovi decreti non ci permettono di essere fisicamente in regia, ma ci arrangiamo lo stesso, tutto un po' a cazzo di cane come sempre. E allora adesso interrompiamo questo torpiloquio per un primo MP3. Signori, per favore, un attimo d'attenzione. Allora, d'ora in poi su questo set non si può più bestemmiare. È chiaro, lo so, è difficile. Anzi, i contravventori saranno puniti con una multa di 20 euro. Chiaro? Ciao. Possibile? Ma come devi mente? Questi sono partecipanti. Che cosa? Delle sanzioni, no? 5, se no, un gran peccato fare questa trasmissione senza la Nina allo stesso tavolo, perché avremmo potuto scambiare commenti molto più prolifici e divertenti, quindi dobbiamo semplicemente attenerci alle regole di distanza e scambiare quanto detto con dei freddi audio tagliuzzati qua e là. Io volevo anche leggere della bestemmia dal punto di vista legale a questo punto. Per chi si stesse chiedendo se la bestemmia è un reato, possiamo trovare delle fonti che ci dicono che per quanto bestemmiare fosse considerato un comportamento deprecabile e connotato da un elevato disvalore sociale, oggi non è più un reato. Ciò non toglie però che la blasfemia, cioè la bestemmia, comporta comunque alcune conseguenze. Il codice penale infatti afferma che chiunque utilizzi invettive o parole oltraggiose contro la divinità in pubblico soggiace alla sanzione amministrativa pecuniaria, compresa fra 51 euro e 309 euro. In questo modo il legislatore ha voluto garantire il rispetto delle regole civili poste a fondamento di una società organizzata. E quando è illecito amministrativo bestemmiare? Per essere sanzionata, la bestemmia deve essere pronunciata in pubblico, non importa da chi, né è necessario che le parole oltraggiose si rivolgano alla divinità, ai simboli o alle persone venerati nella religione dello Stato. In pratica la condotta sanzionabile si estende dall'offesa al dio della religione cattolica a quella che riguarda la divinità di qualsiasi altro credo religioso, a quella contro i defunti anche. Ai più attenti non sfuggirà certo un particolare: non abbiamo menzionato la Madonna. Non a caso prendersela con lei non è sanzionabile, ciò in quanto la legge non ritiene la madre del Signore una divinità e pertanto l'oltraggio alla Madonna non è formalmente una bestemmia. Non è punibile, nemmeno scomodare qualche salto in paradiso a prendersela con i profeti, nemmeno loro vengono considerati delle divinità. Hai capito? Per questo Lino Banfi poi si è potuto prendere la libertà. Poi sentiremo anche il fantastico MP3, anzi lo monteremo adesso, va. Buonasera ragazzi. Ma sei commissario? Sì. Oh no. Ma non dovevi essere a casa tu? Che ci fai qua? Santa Teresa di Gallur, sempre in mezzo stai. Cammina, sbrigati. Cavicchioni! Comandi! Cavicchioni, missione sagratissima, partire a razzo! Subito, signor commissario! Cavicchioni! Io ti spazzo tutti e due gli stinchi, maledetto! Anzi, menischi che ti fanno più male. Onofrio, con te non andiamo d'accordo, eh? Sali, sali, via, opla! Nenno, vuoi guidare tu? Spostati, mannaggia a te. Chi sarebbe il quinto? Zero secchietto un attimo. No, senti che porta male. Vabbè, allora che facciamo? Vedi, puzza sta lacca. Ma te il fiato. Oh, no. Pardon. Sei il cane. Attento, guarda, ti ha macchiato tutti i pantaloni. Benedetto, ma è possibile che devi fare sempre le bizze a modo tuo, Andra? Hai ragione, però. Cerca di capire, non ti posso portare là dentro, è un locale equivoco, ti troveresti a disagio, non ci sei abituato tu. Io vado a lavorare, mica vado a giocare. Stai buono, su, ciao. Oh Madonna benedetta dell'ingoroneta di Foggia Cinofila. Già, purtroppo siamo in questo clima di separazione, coibentazione, ambienti divisi, igiene assoluta, e quindi non possiamo scambiarci e la nenia le nostre, come dire, libere interpretazioni sul tema della bestemmia. Sarebbe stato molto bello vedere la nostra condivisione ideologica e linguistica del tema del turpiloquio. E appunto, l'origine del turpiloquio e della bestemmia. Come diceva prima la nenia leggendo il fantastico blog Dio Salva... anche questa potrebbe essere una bestemmia, diomerdiasalva.net, diceva appunto che tentiamo con poche pennellate di tratteggiarne il ritratto per avvicinarci al livello di malizia contenuto in questo gravissimo peccato. Ebbene, bene, bene, ho trovato un fantastico PDF in cui si parla dell'origine del turpiloquio, ovviamente in termini linguistici, dove dare un nome significa chiamare all'esistenza e quindi creare, no? Il potere di designare le cose, di classificare atti, è il più grande potere che ci sia. Secondo la Kabbalah, Dio creò Adamo scrivendo sulla fronte la parola Emet, verità. Ma come si crea, si può anche distruggere attraverso la parola. Questo è tra l'altro anche il famoso golem, no? E quindi basta eliminare la prima lettera dalla parola precedente per ottenere met, morte. La parola dunque sin dall'inizio ambivalente. E vediamo quindi come Dio stesso nella creazione è riuscito a plasmare all'interno di un elemento due elementi quasi in dicotomia, no? Quindi la parola originariamente non solo crea l'oggetto, è l'oggetto stesso, e quindi vediamo che dare un nome significa chiamare all'esistenza, e sarà forse questa l'origine delle bestemmie, il fatto di interpellare il Dio del creato per renderlo tangibile terreno e soprattutto scaricare su di lui le effettive colpe che secondo i credenti più o meno l'entità può avere rispetto a quanto accade su questo meschino e misero e povero pianeta, per esempio. Arriva poi il turno di Piaget, linguista, no? All'inizio del XX secolo Piaget vide nell'evoluzione dell'uomo la ricapitolazione dell'evoluzione della specie, ravvisando una fase di realismo nominale intorno ai 5-6 anni in cui vige la credenza, che sarebbe poi stata condivisa anche da tutti quei popoli preletterati, secondo cui le parole hanno una realtà propria, concreta e sostanziale. Ancora una volta, quindi, le cose coincidono con le parole e il nome deriva dalla cosa stessa. Il bambino, apprendendo il nome delle cose, crede di penetrare nell'essenza della cosa e scoprire una spiegazione reale. D'altronde, insomma, lo sta dicendo Piaget. Quindi il bambino è un piccolo selvaggio che, almeno per qualche anno, condivide con il primitivo la stessa fascinazione portentosa nei confronti delle parole. Però, insomma, bando alle ciance, come nasce il turpiloquio? E come nasce il linguaggio proprio? E questa è una domanda che, boh, probabilmente ha visto impegnati filosofi Rousseau, Lucrezio, Herder, Vico. E nonostante l'opinione di Dante Alighieri, secondo cui il quale la prima parola pronunciata dall'uomo sarebbe stata il nome di Dio. Quindi vediamo come l'essere umano abbia effettivamente questo comportamento reiterato di, come quando si chiama la mamma, no? La prima parola che si dice è la mamma, generalmente. Abbiamo sempre questa grande capacità, no? di richiamare l'autorità. Non, difficilmente impariamo altro. E vabbè. Già nel 1761 Rousseau, sul saggio, pensate un po', sull'origine delle lingue, aveva sostenuto che il linguaggio derivasse dalle passioni e da un elemento istintuale che viene dai sensi e non dalla ragione. E pochi anni dopo, nel 1773, sempre su un altro saggio però, sull'origine e il processo del linguaggio, Lord Monboddo aveva scritto che il linguaggio è solamente un perfezionamento delle grida naturali degli animali. Idem per i romantici nel XIX secolo, che sostengono poi la tesi dell'affinità tra il linguaggio e i vocalizzi animali. Arriva però la teoria dell'interiezione, quindi una teoria che viene difesa dagli antropologi e dai filosofi, scusatemi, dai filologi, per cui le prime parole derivano appunto sì dai gridi degli animali e quindi negli uomini preletterati accompagnano, non so, un'azione di collera, di paura, di minaccia, di dolore, di gioia, ma i suoni appunto, quindi insomma vediamo, hanno una sorta di sfera emotiva e quindi è particolarmente, no, suggestivo pensare che una parolaccia, che è una parola emotiva per eccellenza, quando bestemmiamo, quando scendiamo, scadiamo nel turpiloquio, quando io dico un porca madonna, è perché effettivamente in quel momento mi trovo in uno stato contingente E per cercare di uscirne, per cercare di esprimere in maniera anche assolutamente automatica la mia reazione nei confronti di quella cosa, ecco che, per esempio, bestemmio. E quindi, chissà, la parolaccia potrebbe essere stata davvero la prima parola pronunciata da un essere umano. Non ci sarà mai modo di provarlo, però se consideriamo la presenza veramente imbarazzante quasi di parole turpi tra le interiezioni, e se prendiamo per buona quindi questa teoria dell'interiezione, vediamo che molto probabilmente sarà stato così. Aggiungo un particolare in nota che precisa che bestemmiare in pubblico ha rappresentato un comportamento penalmente rilevante fino al 30 dicembre 1999, quando è entrato in vigore il decreto legislativo 55 del 99, chiaramente, che con l'articolo 57 ha depenalizzato tale fattispecie. Guarda. Torniamo invece alle voci autorevoli. Che cosa dicono i santi della bestemmia? Sant'Antonio da Padova dice: Dinanzi a genitori che piangono, desolati il loro bambino morto, io prego il Signore. Genitori che piangono, desolati. No, dalla libertà di un padre che mi domanda un pezzo di pane per sfamare i suoi figli, io mi commuovo e prego Dio che gli sia provveduto. Ma dinanzi a sposi che desiderano un figlio e sono bestemmiatori, io prego il Signore che nasca loro un figlio sordo e muto. Sordo per non sentire le bestemmie dei genitori e muto perché non le ripeta. Hai capito sto Sant'Antonio da Padova? Tanto carino, eh? Poi invece c'è... Ah, San Girolamo. Qualunque altro peccato diventa leggero se paragonato alla bestemmia. E poi Sant'Agostino che dice la bestemmia è più grave ancora dell'uccisione di Gesù Cristo fatta dai giudei, perché i crocifissori di Gesù non sapevano quello che facevano e non conoscevano Gesù come vero Dio, mentre i bestemmiatori di solito sanno quello che dicono e conoscono chi è Dio. Ecco. Comunque così in questi tempi tecnici un po' dilatati mi verrebbe anche da dire, ma voi vi ricordate chi è l'animale di Sant'Antonio da Padova? Il porco. E torniamo. Vabbè. Comunque grazie Nenia per questa altra parentesi sulla goccia di vino. D'altronde sono le 19:14. Ve l'abbiamo detto che stiamo registrando, ovviamente, non ve ne siete sicuramente accorti con questa naturalezza del montaggio su Audacity. Sono le 19:14, è ora dell'aperitivo, io sono convinta che è finita questa ondata di coronavirus e spero davvero non duri più di tanto, saremo tutti degli alcolisti, molto probabilmente. Io se vi dico la quantità di vino che mi sono bevuta in questi giorni, penso di essere arrivata a 4 litri da sola. Comunque, appunto, detto questo, torniamo a parlare del nostro turpiloquio, delle nostre bestemmie. Grazie alla Nenia per averci illuminata con questo estratto giuridico e ritornando anche sui santi, che effettivamente insomma, avevano la loro da dire in merito, però come non dargli torto, meglio, come dargliene. E dargli anche delle bastonate. Diciamo che comunque uno dei pochi a porsi domande sull'origine delle bestemmie del turpiloquio all'interno del mondo della linguistica e della filologia è stato Ashley Montagu, 1905-1999. Visto, è campato 94 anni il signor studioso Montagu occupandosi di bestemmie e turpiloquio, per cui non date retta a chi vi dice che bestemmiare fa campare poco. Insomma, Montagu ci diceva che la bestemmia e il turpiloquio non sono fenomeni innati, ma un'acquisizione culturale, pensate un po', raggiunta ben presto dall'umanità e rispondente ad un ben radicato bisogno istintuale. Quindi, come potete vedere, si ritorna a confermare la teoria dell'interiezione di cui parlavamo prima. Montagu dice che la combinazione unica della necessità di far fronte alla frustrazione e il dono della parola gli ha permesso di sostenere l'esistenza di una vera e propria legge delle parole usate per bestemmiare, tutto scritto in corsivo, che si può così sintetizzare. Tutte le parole che possiedono o possono ricevere un peso emotivo sono parole che potranno generalmente essere usate allo scopo di bestemmiare, e quindi la costante del turpiloquio. Esso deve essere avvolto in un manto culturale che provveda a foggiarlo in quell'unico particolare modo. Ciò è evidente nel caso della maledizione e della bestemmia, che presuppongono lo sviluppo di credenze in potenze straordinarie e personali, che permettono di derivare la rabbia verso un oggetto tabuizzato, la divinità per esempio, evitando di rivolgersi alla causa immediata dell'emozione. E così, diciamo che secondo Montagu, il tabù della sanità della vita ha favorito... la santità, scusatemi, della vita, ha favorito l'impiego di mezzi davvero fantasiosi e sostitutivi di un'offesa sotto forma di uccisioni, maltrattamenti, ingiurie varie che vanno rivolte a Dio anziché verso la persona o l'azione da condannare. Ovviamente la comunità, riconoscendo la nocività di queste forme sostitutive, le ha poi proibite, no? Come ci diceva Nenia, anche con il codice insomma giuridico, penale, giuridico. E riconoscendo appunto così insomma questa nocività, appunto la società ha pensato che il turpiloquio e la bestemmia siano potenzialmente disgreganti, no? E quindi vanno contenute. E da qua nascono poi gli eufemismi, il famoso Dio fa torinese, che penso sia, mi raccontava la mia amica Vladimari di appunto di Slick Chick, che salutiamo, mi raccontava come probabilmente sia una abbreviazione del Dio falso, che non è nemmeno sta gran bestemmia, no? E quindi per Montagu così nascono bestemmie e maledizioni che derivano dalle invocazioni della divinità, quindi Cristo, per Cristo, la Madonna, eccetera eccetera, no? Anche se io trovo che riempirsi la bocca con un bel bestemmione spesso e volentieri, guardate, sia davvero soddisfacente come farsi una bella magnata. Ah, ecco. Che senso ha insultare una cosa se pensi che non esiste? Se la insulti, allora vuol dire che in fondo al tuo cuore pensi che c'è. Sarò credente, ma ho anche la logica. No, no, no. La bestemmia è una parolaccia. Una parolaccia normale, una parolaccia come tutte le altre, e nessuno utilizza le parolacce in senso letterale. La parola vaffanculo letteralmente significa augurare alle persone di andare a fare cose nel culo in senso spregiativo. È una parola omofoba, ma nessuno dice vaffanculo perché è omofoba. Non è questo il punto. Allora, se ogni volta che uno bestemmia in realtà vuol dire che crede in Dio, ogni volta che dice vaffanculo è omofobo, ogni volta che dice pezzo di merda è il dietologo di Gianni Morandi. No! Cioè, così capiamo chi è che naviga nel tipo Non è quello il punto, non è vero niente di questo argomento. E soprattutto, io c'è un altro motivo per cui parlo un sacco di bestemmie, e anche di bestemmie. Cioè, allora, il motivo per cui lo faccio negli spettacoli è perché se vi è mai capitato a qualcuno di voi non credenti, e magari ogni tanto entrate in chiesa perché credete il matrimonio degli amici, cioè cerimonie a cui dovete partecipare, c'è sempre quel momento in cui c'è sta il prete che sta lì a parlare, a raccontare le sue stronzate, e voi siete lì chiusi nel vostro muro di vetro invisibile a fare tutta cazzata, tutta cazzata. A me è capitato tante volte. Beh, a me piace che eventualmente quando faccio le serate ci stanno eventuali credenti che stanno qui e mentre noi ridiamo fai tanto l'inferno. Un po' per uno non fa male a nessuno, è giusto così, non c'è problema. E l'altro motivo, che in realtà è quello che poi utilizzo anche nella vita privata, è che a me mi fa ridere il meccanismo della schicchera della bestemmia. Quello che io chiamo della schicchera, cioè come funziona. Quando voi bestemmiate in faccia a uno che non se l'aspetta, succede la stessa cosa che succede se magari state attraversando la strada, siete un po' sovrappensiero, e vi passa una macchina a 2 centimetri dai piedi. Capisco che parlare di queste cose a Napoli potrebbe essere un po'... Però, immedesimatevi in una persona tipo. Che succede se veramente in mezzo alla strada ti passa un veicolo vicinissimo, tu non te l'aspetti perché ti sono a pensiero? Prima ti spaventi, no? Fai... E poi appena ti rendi conto che non ti è successo niente, non è che ti calmi, al contrario, te cazzi, no? Ma che cazzo fai? C'è stupido! Dici stupido, però non sono... Con la bestemmia è la stessa cosa, tu bestemmi in faccia uno che non se l'aspetta, la prima cosa che fai... E poi reagisce male, no? Ma che cazzo fai? Testa di cazzo, ci fai fumi a tutti, ma non c'è la Madonna. No, non mi fai fumi a tutti, la Madonna. Perché poi è quella la cosa che succede, che uno non vuole, lui non vuole pensare alla bestemmia, ma ormai gliel'hai detta, continua a pensarci e il cervello gli fa il cortocircuito. La crisi epilettica della fede. A me quello è un meccanismo che mi fa un sacco ridere. Ma a parte questo, c'è anche proprio un discorso di libertà, perché noi diciamo, l'altro argomento stupido della bestemmia è: non si fa perché è una questione di rispetto. Vaffanculo! Ma che cazzo vuol dire? Questa cosa del rispetto è una stronzata, e se ci fate caso è un meccanismo di rispetto che noi ormai non diamo più a nessun altro argomento, a nessun'altra persona, per nessun altro motivo al mondo. noi non mostriamo rispetto per le altre cose normali della nostra giornata. Pensateci, becchi uno che a me mi piace mangiare la carne, mangia cadaveri, io non mangio la carne, nazi vegano, io non mangio né la carne né i latticini né quello che cazzo frocio. Ti piace la trap, bimbo minchia? Ti piace di André? Frocio! Voti PD, pignota! Voti la Lega, fascista! Io credo in Dio! Ah, io rispetto la tua opinione, ma basta, culo! Io sono ateo! E che ti succede quando muori? Ma che cazzo me ne frega! Non sto facendo niente per organizzarmi per agosto, sto pensando! Ciao ragazzi, scusate, sto trascurando un po' il canale, lo so, ho tantissime cose da fare, però spero di riprendere presto il ritmo. Ciao! Ma partiamo invece con una lista di parole del giorno selezionate apposta per voi, e abbiamo la prima in assoluto parola del giorno: virus. In biologia, termine con cui si designa un gruppo di organismi di natura non cellulare e di dimensioni submicroscopiche, incapaci di un metabolismo autonomo e perciò caratterizzati dalla vita parassitaria endocellulare obbligata, costituiti da un acido nucleico rivestito da un involucro proteico. Quando un virus riesce a penetrare all'interno di una cellula non con la quale è venuto in contatto, il suo genoma si integra nel materiale genetico della cellula ospite, alterandone così il patrimonio genetico e obbligandola a sintetizzare acidi nucleici e proteine virali, e quindi alla replicazione del virus. Hai capito? Non è proprio da roba di poco conto. Poi invece abbiamo un'altra parola che abbiamo sentito tante volte questi giorni, ed è pandemia. Pandemia che significa dal greco di tutto il popolo, epidemia con tendenza a diffondersi ovunque, cioè a invadere rapidamente vastissimi territori e continenti, per esempio una pandemia influenzale, una pandemia vaiolosa. E questo è quello che sta succedendo in questi giorni. Non è più epidemia, perché? Perché l'epidemia consisteva invece in una manifestazione collettiva di una malattia che rapidamente si diffonde per contagio diretto o indiretto, fino a colpire un gran numero di persone in un territorio più o meno vasto e si estingue dopo una durata più o meno lunga. La manifestazione omologa degli animali è l'epizoosia. Che bello! E quindi questo è. E poi c'è una parola difficilissima che abbiamo sentito forse per la prima volta, noi che non siamo dei medici, soltanto due giorni fa, dal direttore dell'IS, che è l'Istituto Superiore di Sanità, ed è paucisintomatico. E significa che lo stato patologico che presenta pochi e lievi segni o disturbi, quindi chi è positivo in questo caso a coronavirus ma ha dei disturbi leggerissimi, e si dice così, sapevatelo. Poi invece abbiamo delle altre parole che andremo a selezionare, e una di queste è letalità, è importante. Letalità, sinonimo di mortalità, come capacità di provocare la morte, letalità di una malattia, di un'epidemia o di un veleno, o più spesso come numero di decessi, in statistica quoziente di letalità, il rapporto fra il numero di morti per una data malattia e il numero delle persone affette dalla stessa. Hai capito? Tu che ne pensi, Nina? Come andrà questa faccenda? Hai fatto un po' di conti, di calcoli? Io sì, dal momento che sono all'11° giorno di quarantena non posso uscire, quindi ho fatto tanti conti con il pallottoliere, col calendario, lavorando come un somaro, ma al tempo stesso sono anche riuscita invece a perdere il conto delle bestemmie che ho tirato in questo periodo. Proprio per citare Montagu, diciamo che io sono tra i popoli che bestemmierebbero, non lo farebbero secondo lui gli indiani, i giapponesi, i polinesiani, ma io faccio parte, ahimè, della cultura mediterranea latina e quindi ho in comune, anche tu Nenia cara, abbiamo in comune con i nostri cugini alla lontana spagnoli, perché vi ricordate, vero, che linguisticamente noi non siamo cugini degli spagnoli, siamo ai noi cugini dei francesi. E anche qua ci tirerei un bel Dio fa, e comunque sia, appunto, essendo italiani e condividendo con gli spagnoli la matrice culturale della bestemmia, non possiamo esimerci dal farlo. E Montagu ci diceva comunque che diciamo sì che indiani, giapponesi, polinesiani non bestemmino, non bestemmiassero, anche se questo poi è stato un equivoco culturale, perché in una lingua esotica non si trova poi l'equivalente esatto delle nostre parole tabù. E quindi questo ci fa ricordare, no, il mito del buon selvaggio, del primitivo puro di cuore. Ammazza, ragazzi. E quindi non so... Nenia cara, io ora ti rilascio la parola, perché so che ci vuoi dire qualcosa di molto importante. E dal manuale della bestemmia invece vi leggerò alcune fra le 462 bestemmie a disposizione, le pescherò un po' da qui e un po' da là. E inizierei con questa: Dio capocollo, Dio capretto, Dio caprone, Dio carabiniere, Dio carro armato, Dio cassonetto, Dio castrato, Dio cavaliere, Dio cavallo, Dio fumatore doppio, Dio fungo frascico, Dio fuoribordo, Dio furioso, Dio Galliani, Dio istrice, Dio Joker, Dio Madonna, Dio maestro di karate, Dio magnaccia, Dio mago, Dio pederasta, Dio pedofilo, Dio pellicola 8 mm, Dio porco da monta, Dio poster, Dio prataiolo, Dio strombettato, stuprato, Dio sudicio, Dio suino, Dio super saiyan di secondo livello, Dio sventrapapere, Dio vampiro, Dio venezuelano, Dio verme, Dio vigile, Dio wafer, Dio X-Men, Dio XXX, Dio yogurt. Romano, ho pregato per questo. Nelle cose lette in questi giorni rilancio un'affermazione di Fabio Fazio: chi non paga le tasse non commette solo un reato, ma anche un delitto. Se mancano posti letto e respiratori è anche colpa sua. L'udienza è streaming sulla Quinta Beatitudine e centrata su una parola. La misericordia. Quella, ricorda, fu anche la parola chiave del primo Angelus da Papa. Io giorno ho sentito tanto forte questo, è il messaggio che io devo dare come Vescovo di Roma. Misericordia, misericordia, per favore, perdono. Per domani, festa di San Giuseppe, il Papa rilancia l'invito della Chiesa italiana a recitare il Rosario alle 21. E qui chiediamo che custodisca le nostre famiglie, con speciale gli ammalati, e le persone che stanno prendendosi cura degli ammalati, i medici, infermieri, infermiere, volontari, che rischiano la vita in questo servizio. Dio sventrapapere entrerà assolutamente nel vocabolario della Accademia della Brusca. È fantastico, grazie a Nenia per aver trovato questa risorsa, io direi impeccabile proprio, che penso sarà anche di grande aiuto ai nostri cari amici ascoltatori da casa che ci stanno ascoltando ovviamente in streaming sul nostro sito wombat.noblogs.org, oppure i più fortunati ci stanno ascoltando in questo periodo di ritiro e quarantena dalle nostre frequenze 1359 AM. Vi ricordiamo i nostri social? No, perché io non ho la lavagnetta qui, quindi non me li ricordo perché non li uso, ma sicuramente ci potete trovare su Twitter, su Facebook, oppure potete arricchire il nostro fantastico, la nostra fantastica raccolta quasi firmata da Fabbri Editori di bestemmie all'indirizzo postawombat@insiberia.net. Mi raccomando, vi aspettiamo numerosissimi, scriveteci tutte le sfumature di bestemmie che conoscete, a partire dal famosissimo Dio Merda toscano, passando per l'universale Dio Boia che unisce Ferrara e Livorno, a tante altre sfumature. Non so, mio nonno per esempio diceva spesso Dio Marziano, Dio Marzian, e quindi insomma sbizzarritevi, fate imbizzarrire i cavalli di Dio e mandateci le vostre versioni. E poi invece abbiamo i Madonna, Madonna Rozzo, Madonna Sadomasochista, Madonna Sodomasochista 2, Madonna Salamandra, Madonna Salame, Madonna Salsicciotto, Madonna Sandokan, Madonna Sassaiola, Madonna Satanassa, Madonna Somaro Sardo, Nano da Monta, Madonna Soranana, Madonna Sorca, Madonna Sorcone, Madonna Sudicio, Madonna Suina, Madonna Suina Massima, Madonna Suino, Madonna Super Saiyan di secondo livello, Madonna Sorcone, Madonna Spacciatore, Madonna Spazzacamino, Madonna Spazzino Africano, Madonna Puzzola, Madonna Radioattiva, Madonna Rompipalle, Madonna di Rosibindi, Madonna Rospo, Madonna Rospo 2, Madonna Rospone, Madonna Troglodita, Madonna Troia da concorso, Madonna Trombata, Madonna Trombetta, Madonna Trota, Madonna Trussola, Madonna Velenosa, Madonna Venezuelano, Madonna Termosifone, Madonna Topa, Madonna Terrona, Madonna Ratto de Fogna, Madonna Porco, Madonna Pigmalione, Madonna Pioppo, Madonna Pippone, Madonna Piromane e Madonna Piroscafo, Madonna Pizzaiolo, Madonna Pellicola 8 mm, Madonna Leccaculo, Madonna Indiavolata, Madonna Imbalsamata, Madonna Formicone, Madonna Frascica, Madonna Farfalla Arrostita sul Cannello del Signore, Madonna Formichiere, Madonna Formicolosa e Madonna Formicona, Madonna Diavolessa, Madonna Diavolina, Madonna Drogata, Madonna Drogata in Comunità, Madonna Ebraica Sverniciata, Madonna Embolosa e Madonna Fagiana, Madonna Barattolino San Montana, Madonna Barbagianni, Madonna Barchetta e Madonna Bascula, Madonna Bastarda e Madonna Bastonata, Madonna Bastronza, Madonna Batteria per Auto. Ecco. Menia, sì, mi aggiungo al coro dei porchi D, perché da un porco Dio diventano dei, quindi sono porchi D, e soprattutto mi sento di condividere con voi questo audio che è fantastico ed è stato il tormentone dell'estate 2019. Olio, mangio con l'olio extravergine. Porco Dio, porco Dio, porca la Madonna di Dio, fermate, porca Madonna di Dio. E che dire, abbiamo sicuramente dato soddisfazione alla perversione verso il turpiloquio di tanti nostri ascoltatori, ne siamo soddisfatte, ma come vi dicevamo prima aggiungete alla nostra lista anche le vostre bestemmie in questa puntata che volge al termine e che è stata decisamente sudata e faticosissima. Io ho gocciolato sudore su Audacity per montarla. Ringrazio a distanza la mia amica e compare di trasmissione Nenia, che ha trovato ovviamente anche queste meraviglie, queste perle di MP3 che avete potuto ascoltare, e vi diamo appuntamento, sperando di essere ancora vive e di non fare una faticata come oggi, a giovedì prossimo, il 27 di marzo, quando il coronavirus speriamo volgerà al termine, ma non voglio dire nulla perché tutte le volte che dico qualcosa l'epidemia scoppia, e quindi intanto vi continuiamo a salutare con il nostro gomito a gomito, un po' come Frankenstein Junior, e vi auguriamo un buon fine settimana, reclusi, grassi e ubriachi, e tanti baci virali, e a giovedì prossimo dall'Accademia della Brusca. suono, la voce di un vento a raccontare il senso della vita, collezione di attimi, per le sensazioni più belle, collezione di attimi, per le sensazioni più belle. Questo pezzo era ovviamente dedicato a Orso a pochi giorni dall'anniversario della sua scomparsa, 18 marzo 2019 e 18 marzo 2020.